Letture di Radio 24. Fariba Nawa aveva 9 anni quando la sua famiglia lasciò l'Afghanistan per trasferirsi in America. Diventata giornalista, decide di tornare dopo 18 anni per scrivere un resoconto sui cambiamenti avvenuti nella sua terra d'origine. Assieme alla sua guida, un giovane ragazzo di nome Saber, si reca a Gorian, un distretto al confine con l'Iran dove la maggior parte della popolazione è dedita allo spaccio di droga. I signori della droga guidano il distretto con l'aiuto di un governo locale debole e corrotto. Assoldano mariti e figli per il trasporto dell'oppio a piedi o ad orso di asino attraverso il deserto, dove rischiano di trovarsi sotto il fuoco delle guardie di confine iraniane. Gli uomini lasciano debiti di migliaia di dollari alle vittime principali, le donne e i bambini. I signori della droga bussano alle porte delle vedove per esigere i soldi dell'oppio. Saber, magro e forte, occhi marroni e vispi. Una sera, mentre aspettiamo di cenare, gli domando quale sia, a suo avviso, la parte peggiore del commercio della droga. A rispondere ci mette un istante. Le ragazze vendute per pagare i debiti legati all'oppio, i vigliacchi di trafficanti per salvarsi la pelle, vendono le figlie giovanissime. È un atto che ci disonora, dice alzando la voce. Le famiglie di norma stabiliscono un prezzo per le figlie. Conosci qualcuno con cui possiamo parlare? Chiedo. Ci sono un sacco di famiglie, ma quasi nessuna sarà disposta ad aprire bocca. Si vergognano. Ma una la trovo di sicuro. Il giorno dopo, Saber trova una famiglia disposta a parlare solo perché il padre è scomparso. Per giungere a destinazione, ci vogliono 10 minuti di macchina su una strada dissestata lungo il fiume Gorian. Saber bussa a una delle porte e, per rispetto alle donne, resta fuori insieme a Jalal, il tassista. Viene ad aprirci una ragazzina sorridente con un caschetto di capelli castani. Senza parlare, ci indica una donna più grande con un bimbetto in braccio. Si presenta. Il suo nome è Basira e mi indica 6 figlie, 4 femmine e 2 maschi. A portarmi il tè verde è una delle femmine, ricci castani che le spuntano da sotto il velo blu e le cadono morbidi sulla fronte. Lei è Daria, ha 12 anni, ma nessuno ci crede perché cresce in fretta. Non ha ancora avuto il ciclo. Daria abbassa lo sguardo, si vergogna. Al velo ha fatto un nodo lento e riesce a portarlo con grazia anche mentre serve il tè alla sua ospite. «Salam, Daria Jan, come stai? Ci vai a scuola?» le domando. «Faccio la seconda», risponde con un sorriso a denti gialli. «A 12 anni dovrebbe essere alle medie, ma siccome i talebani hanno proibito alle donne di andare a scuola per 6 anni, Daria è rimasta indietro e così frequenta le elementari con altri 4 milioni e 800 mila bambini. È una ragazza brillante, un po' ribelle», mi informa Basira. «Vorrei tanto tenerla a casa, ma dovrà andarsene per raggiungere il marito». Daria sbatte il vassoio con il bicchiere vuoto del mio tè e imbestialita alza gli occhi sulla madre. «Non è mio marito e io non vado da nessuna parte», come una furia sparisce in cucina. Basira dice che Daria non vuole essere una donna sposata. È una ragazzina felice di tornare a scuola dopo 6 anni di reclusione in casa durante il regime talebano. Ma quando arriva il marito, la ragazza spensierata si tramuta in una bambina rabbiosa e spaventata. Sua madre prova a convincerla. Basira vive in uno stato di indigenza tale che vorrebbe tutta la famiglia al servizio di quell'uomo. Ma Daria si rifiuta. È più vecchio di lei di 34 anni, non parla farsi e ha già una moglie e 8 figli. Quando arriva, Daria lo maledice e scappa via. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Fariba Nawa, La moglie afghana. Non tutte le donne sono nate libere. Newton Compton Editori, 384 pagine, 9,90 euro.